Palazzina a Roma, si pensa ad una fuga di gas, ma poi viene ritrovato un biglietto. Siete dei ladri, non vi farò godere questa casa, c'è scritto. Dopo le parole sul pugno, Papa Francesco torna a far discutere, questa volta parlando di figli. Non bisogna essere conigli, dice, ci vuole una paternità responsabile. Annullato l'ergastolo, sono liberi due italiani detenuti in India con l'accusa di aver ucciso il loro compagno di viaggio, un segnale che fa sperare anche per i due Marò. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti come sempre in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno e naturalmente durante la diretta il numero di sms 349-238-6666. In apertura parliamo di politica, dunque è una giornata che si compone di due fronti, da una parte la bocciatura da parte della Consulta del referendum proposto dalla Lega sulla legge Fornero sulle pensioni e poi l'altro aspetto che riguarda la legge elettorale e il voto per il Quirinale. Questa mattina su questo fronte c'è stato l'incontro tra Renzi e Berlusconi mentre si attende la riunione dei senatori del PD. All'interno del partito lo scontro è decisamente ancora aperto. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora partiamo da un'ora di colloquio, quello tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, ad un anno esatto dal patto del Nazareno. Il Premier vuole stringere sull'Italia come arginare la minoranza PD, torna a discutere comunque con i senatori Dem per chiarimenti sul sistema di voto. E l'assemblea appena convocata a Palazzo Madama si chiuderà con un voto. Ma sentiamo cosa ha detto il vice segretario PD Lorenzo Guerini subito dopo l'incontro tra Renzi e Berlusconi. Abbiamo ribadito a Forza Italia la nostra posizione, che è quella no alle liste bloccate, sì a un meccanismo che preveda capilista e preferenze, sì al premio di lista per una legge elettorale che garantisca la governabilità al Paese. Attendiamo da Forza Italia che vi sia in Parlamento una risposta adeguata a questa nostra impostazione. In sostanza quindi la linea non cambia anche sui capilista bloccati e Miguel Gontor della minoranza Dem avverte, ci sono 29 senatori PD che voteranno contro, ormai non c'è nessuna trattativa. In questo clima, ricordiamo, si sta svolgendo l'incontro tra il Premier e i senatori Dem a Palazzo Madama. Nell'incontro invece con Silvio Berlusconi almeno ufficialmente non si è parlato di Quirinale, ma è chiaro che la partita dell'Italicum si incrocia con quella del Colle. Nel pomeriggio anche Silvio Berlusconi incontrerà Palazzo Madama i suoi senatori. Da parte del Movimento 5 Stelle invece c'è la disponibilità a votare contro le liste bloccate insieme alla minoranza Dem. A te Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. L'altra notizia di giornata, come si diceva, è il fatto che la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sulla legge Fornero proposto dalla Lega Nord. Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, mica tanto. Però la sentiamo malissimo, non so se è in un posto dove prende male. No, sono io che sono incazzato, a nome non come segretario della Lega, ma a nome di milioni di italiani, perché stavo ascoltando il servizio sulla legge elettorale e mi veniva da dire ma chi se ne fotte della legge elettorale, delle preferenze, delle liste bloccate, qua c'è un referendum per restituire diritti acquisiti a milioni di italiani. Hanno deciso che non si fa, così Renzi è contento, la Fornero è contenta, non sono contenti milioni di italiani, è veramente una pessima giornata. Però Salvini, se non è ammissibile da un punto di vista costituzionale, non è ammissibile, c'è poco da fare. No, noi abbiamo il professor Luca Antonini, che è un illustre costituzionalista, quello che ci ha steso il parere sulla piena ammissibilità. Però in Italia, sai, la legge si applica. C'è divieto di sosta che è divieto di sosta per qualcuno e non è divieto di sosta per qualcun altro. Il referendum sulla scala mobile fu ammissibile, sì. Questo sulle pensioni è stato ammissibile, no. Perché immagino che qualcuno abbia fatto il colpo di telefono giusto alla persona giusta nel momento giusto e gli italiani se la sono presa in quel posto. Mi vergogno di questo Stato e mi vergogno di questo Paese. Salvini, sento una cosa, quindi ritiene evidentemente da quel che ci dice che la Consulta sia stata orientata politicamente? Una scelta politica, se ci sono dei professori che dicono referendum si può fare, è una scelta politica, non è una scelta di legge. La legge, come sempre in Italia, viene interpretata, seconda probabilmente, dell'interesse di qualcuno. L'input in questo momento è non disturbare il dittatore Renzi, che sarebbe stato disturbato perché gli italiani avrebbero votato in massa per cancellare questa legge schifosa, E mi spiace che Renzi e Berlusconi passino il tempo a parlare della legge elettorale e non di problemi come questi, veramente. Ma non finisce qui comunque. Non finisce per qui, cosa riguarda, intende? Cosa intende per non finisce qui? Adesso noi abbiamo seguito tutte le vie normali previste dalla legge, il referendum, le raccolte firme, il Parlamento, il Senato, le regioni. Evidentemente in Italia non basta fare le cose normali, bisogna fare delle cose anormali, però io per restituire i diritti a questi italiani, cioè, sono tutto. E cosa intende? Cioè prima le facciamo, poi le diciamo. Ma anche azioni di forza? Ma guardi, qua fare le persone per bene, io sono un pacifico, democratico, non violento, però in Italia la democrazia è morta, perché la democrazia si decide nella direzione del PD. Cioè, in Italia la democrazia passa dalla direzione e quindi, del quindi la conseguenza diretta qual è, mi scusi? Azioni di forza? Se serve. Vada alla Corte Costituzionale a casa di un esodato, di un disoccupato, di un cassintegrato, di qualcuno che non ce la fa pagare la retta del mutuo e che sperava in questo referendum che riportasse un po' di giustizia in questo paese. Questo paese è in mano a pochi che fanno i loro interessi. Io non ci sto ad assistere a questo scempio e quindi non mi arrendo, e quindi se le vie normali non bastano seguiremo vie più fantasiose. Grazie Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, buona giornata. Oggi intanto alle 15 si riunisce il Consiglio dei Ministri, nell'ordine del giorno non c'è il discusso, anzi o meglio, è entrato all'ultimo minuto il discusso provvedimento sulle banche popolari, ci sono sicuramente le nuove norme sul terrorismo. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno Simone, è così, l'esecutivo dovrebbe approvare il pacchetto antiterrorismo di cui si discute da alcune settimane. A firma dei ministri dell'interno Alfano e della giustizia Orlando, il provvedimento ha come obiettivo quello del contrasto delle modalità emergenti con cui si manifesta la minaccia jihadista, ancora più preoccupante dopo Parigi. Non vi è ancora certezza sullo strumento che utilizzerà Palazzo Chigi, disegno di legge o decreto, di sicuro si interverrà sul codice penale introducendo la possibilità di applicare una pena fino a 10 anni di carcere per chi va a combattere nei teatri di guerra. Le ultime stime indicano, lo ricordiamo, 59 foreign fighters passati per l'Italia, sanzioni anche per chi organizza i viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità terroristiche e per i soggetti che si autoaddestrano al compimento di atti terroristici. Il testo prevede poi misure di prevenzione già contenute nel codice antimafia per i sospetti terroristi, sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno, ritiro del passaporto. C'è quindi un giro di vite sulla propaganda via web, con più poteri all'autorità giudiziaria e il via libera alla Procura Nazionale Antiterrorismo. Capitolo infine delle banche popolari, lo anticipavi, il governo accelera sulla contestata riforma che entra all'ultimo minuto nell'ordine del giorno dei lavori. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, vedremo che cosa ne emergerà. Restiamo nel frattempo a parlare di terrorismo e facciamo il punto su quello che succede fuori dall'Italia, in Europa ma anche in Giappone, sotto shock oggi per un video nel quale si minaccia l'uccisione di due cittadini appunto nipponici. Sarebbero fuggiti in Spagna due uomini sospettati di essere componenti della cellula terroristica belga di Verviers. La notizia, battuta dalle agenzie belghe e spagnole, non è stata però ancora confermata. Secondo le stesse fonti, in Spagna si stanno concentrando le ricerche di Abdelmounian Haddad, 21 anni belga, e Zaid Koulousi, 18 anni con passaporto olandese, scappati durante il blitz antiterroristico di giovedì scorso a Verviers. Erano invece diretti in Siria i due uomini, fermati giovedì sera all'aeroporto di Bruxelles mentre era in corso la retata antiterrorismo. Lo ha confermato la Procura federale, che ha ribadito che l'arresto non è direttamente collegato alla cellula jihadista sgominata dalla polizia a Bruxelles. In Francia, 4 dei 12 fermati per l'inchiesta sugli appoggi al terrorista Mehdi Coulibaly sono stati messi in stato d'accusa in vista di una possibile presentazione davanti al giudice. Si tratta, secondo quanto si apprende, di 4 uomini tra i 22 e i 28 anni. A Berlino invece oggi c'è stata una maxi operazione che ha coinvolto circa 200 agenti di un comando speciale antiterrorismo. I controlli sono scattati dopo che venerdì scorso erano stati arrestati nella capitale due uomini di 41 e 43 anni ritenuti leader di una cellula islamista. Ad Atene intanto prosegue oggi l'udienza al sospetto terrorista di origine algerina, cui il Belgio ha chiesto l'estradizione perché collegato alla cellula jihadista di Verviers. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 ore. Nel video l'uomo in nero, in inglese con accento britannico, apostrofa direttamente il primo ministro giapponese Shinzo Abe e dice: sei venuto qui a partecipare alla crociata contro di noi. anche se il Giappone è di 8.500 chilometri. Uccideremo questi due uomini se entro 72 ore non pagherai un riscatto di 100 milioni a testa. Rischia quindi di concludersi nel peggiore dei modi la visita di 6 giorni in Medio Oriente di Abe, dopo che lo Stato Islamico ha diffuso il video in cui un uomo mascherato brandisce un coltello sopra la testa di 2 muti ostaggi giapponesi in tunica arancione. Uno è stato identificato come Kenji Goto, un reporter freelance di 47 anni, vincitore di vari premi giornalistici. L'altro è Haruna Yukawa, 43 anni, di cui è meno chiaro il ruolo, forse un lavoratore in una società di sicurezza. Sabato scorso al Cairo Abe aveva promesso 200 milioni di dollari di aiuti non militari per i paesi sotto la pressione dell'ISIS, nel quadro di un pacchetto complessivo da 2,5 miliardi di aiuti per lo sviluppo e la stabilizzazione dell'area. Da Gerusalemme il premier ha espresso tutta la sua indignazione, ha confermato gli aiuti umanitari e ha affermato che farà il possibile per risolvere la crisi. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Restiamo in altre aree di tensione perché infuria nuovamente la battaglia per l'aeroporto di Donetsk, città da 9 mesi in mano ai ribelli della cosiddetta Repubblica di Nuova Russia. Andrea Ciocca, il capo progetto di Medici Senza Frontiere nella capitale del Donbass, ci offre uno spaccato di vita quotidiana in una città al fronte. Donetsk era stata radicalmente rinnovata per gli europei del 2012, lo stesso aeroporto era il più moderno del paese, ora è un cumulo di macerie dove le truppe di Kiev, che vengono chiamate i Cyborg, resistono da mesi per impedire la caduta del territorio nelle mani dei filorussi. Sentiamo dunque Andrea Ciocca, intervistato da Gigi Donelli. Siamo tornati a Donetsk da qualche settimana dopo che per motivi di sicurezza avevamo lasciato la città e abbiamo scelto un quartiere, diciamo, nella zona sud-orientale della città, più lontana dall'aeroporto, perché l'aeroporto è la zona dove i combattimenti sono concentrati e i quartieri all'aeroporto, più contigui all'aeroporto, sono periodicamente sottoposti a bombardamenti. È la prima volta io che vengo a Donetsk ed è effettivamente una sensazione molto strana, perché camminando per strada si ha l'impressione che sia una città molto bella, anche ricca, che fino all'anno scorso, 2 anni fa, viveva in prosperità, e quindi c'è uno stadio nuovo, ci sono hotel nuovi, strade molto, molto grandi. Stando lontani dall'aeroporto, camminando per strada, si ha l'impressione di vivere in una città, quasi in una capitale europea, molto, molto moderna. Sappiamo che gran parte della popolazione, diciamo tra i 30 e il 40% delle persone che abitano a Donetsk, se ne sono andate, però quelli che rimangono cercano di vivere, di continuare la loro vita, ci sono ancora prodotti nei negozi, la gente cerca di vivere. Negli ultimi, soprattutto 2 o 3 giorni fa, è abbastanza chiaro che i combattimenti si sono intensificati, lo si sente proprio a livello di udito, le esplosioni sono più forti, più frequenti e più intense, e purtroppo anche negli ultimi giorni i tiri di artiglieria sono stati meno concentrati sui distretti più vicini all'aeroporto e sono andati a colpire anche altri quartieri della città. Proprio ieri purtroppo un piccolo ospedale, un poliambulatorio nel quartiere dove noi abitiamo è stato colpito da un tiro di artiglieria e c'è stato un dottore e 6 pazienti feriti. Non è il primo episodio, ma è quello che sicuramente ci ha colpito di più, perché è appena successo ed è proprio vicino a dove viviamo noi. E veniamo alle vicende italiane, partendo dalla cronaca con la storia che arriva questa mattina da Roma: un'esplosione in un palazzo che sembrava una semplice fuga di gas, ma alcuni dettagli fanno sospettare che così non sia. Abbiamo in diretta la nostra Anna Marino per gli aggiornamenti. Anna. Sì, buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Non si esclude nessuna pista, compresa quella dolosa, nelle indagini per fare luce sull'esplosione, come dicevi tu, che nella notte è successa in un palazzo a Colli Aniene, nella periferia nord della capitale, poco dopo le 3 del mattino. Ha provocato la morte di un 50enne, il ferimento di 14 persone, ora in ospedale, una in codice rosso. La deflagrazione ha scatenato anche le fiamme, ha causato scene di panico, diversi danni alle auto in strada, e la protezione civile si sta occupando di 11 famiglie evacuate, ma soprattutto è giallo per un particolare su cui si indaga. È stata trovata una bombola di gas nei pressi dell'ingresso di questo appartamento disabitato in cui è successa l'esplosione, con una manopola aperta. aperta, e diciamo, da una parte c'è stato un biglietto sequestrato dalla polizia. Il signore dice: la casa non ve la farà godere perché siete ladri più ladri, queste le parole, e la vittima è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco nel bagno di un appartamento al piano superiore rispetto a quello dell'esplosione, mentre la polizia in questo momento sta cercando un'anziana di 82 anni che abitava proprio l'appartamento vuoto in cui è avvenuta l'esplosione. La donna avrebbe ricevuto numerose ingiunzioni di sfratto che si sarebbe dovuto eseguire a breve, e l'anziana in passato aveva minacciato gesti estremi pur di non lasciare la casa. Secondo alcuni vicini aveva dato segni di squilibrio e instabilità, e secondo altri si trattava di una persona tranquilla. Per ora è tutto. Grazie ad Anna Marino per questi aggiornamenti. Noi rimaniamo a Roma, ma per tutt'altro argomento: la presentazione ufficiale della nuova Alitalia, che ha seguito la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Eh sì, la vecchia Alitalia era in una situazione drammatica, la nuova invece prospettive realisticamente solide. Dunque guardiamo al futuro con fiducia e ottimismo, così ha esordito in conferenza stampa, la prima conferenza stampa della nuova Alitalia, il presidente della compagnia Luca Cordero di Montezemolo. Quattro gli ingredienti per il successo del nuovo progetto: le risorse umane, la forza del brand, i servizi innovativi e le rotte, che verranno notevolmente rafforzate con più voli a lungo raggio, i quali passeranno da 11 a 25 settimanali entro il 2018, ma l'obiettivo principale, ha detto Montezemolo, è di portare l'azienda in utile nel 2017, obiettivo confermato dall'amministratore delegato di Alitalia, Silvano Cassano. Sentiamo. Oggi Alitalia è ancora un'azienda che ha delle grosse difficoltà, non possiamo dimenticarcene. Il nostro impegno, che abbiamo riconfermato ieri in consiglio d'amministrazione, è stato approvato, deve tornare all'utile nel 2017. Noi pensiamo che nel 2017 ci possiamo avvicinare ai 100 milioni di euro, potete capire che le variabili sono molte naturalmente, perché vogliamo mantenere il piano di investimenti per permettere all'Alitalia di rilanciarsi sulla qualità. Quanto al tema del rilancio occupazionale, Cassano ha detto: prima bisognerà rimettere i conti a posto. All'incontro sono intervenuti anche i vertici di Etihad, che ricordiamo è il nuovo partner al 49%. Questa è l'ultima possibilità di salvare Alitalia, ha detto l'amministratore delegato James Hogan, assicurando che però Etihad per Alitalia è un investitore a lungo termine, non mordi e fugge. Poi una promessa: l'Italia, ha detto, sarà la compagnia più sexy. E da Roma è tutto. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È inammissibile il referendum della Lega sulla legge Fornero. Rabbia di Salvini, che ai nostri microfoni dice: non è finita qui, azioni di forza se serve. La Corte Costituzionale è orientata politicamente. Intanto si tratta su legge elettorale e Quirinale. Stamattina l'incontro tra Renzi e Berlusconi, ma è ancora scontro aperto nel PD. Non si tratta, dice Gotor, della minoranza. E oggi il governo dovrebbe varare le norme per contrastare il terrorismo. Intanto l'ISIS manda un video con due ostaggi giapponesi. Tokyo paghi o li decapiteremo. Esplosione in una palazzina a Roma, si pensa ad una fuga di gas, ma poi viene ritrovato un biglietto: siete dei ladri, non vi farò godere questa casa. La Corte Suprema indiana questa mattina ha annullato la condanna all'ergastolo di Tommaso Bruno ed Elisabetta Boncompagni, che era stata pronunciata all'alta corte dell'Uttar Pradesh, e ne ha disposto l'immediata liberazione. Erano in carcere dal febbraio 2010 con l'accusa di aver ucciso a Varanasi il loro compagno di viaggio Francesco Montis. Ci sono naturalmente, c'è un pensiero che va in contemporanea a questa liberazione, a quello che potrebbe succedere per il caso dei due Marò, e ci verremo tra un attimo. Ma intanto io voglio salutare Euro Bruno, che è padre di Tommaso Bruno, una delle due persone che è stata in carcere e che è stata liberata questa mattina. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lo ha già sentito? Non ancora. Non è ancora stata disposta la scarcerazione, però sappiamo che l'ambasciatore sta alacremente lavorando per procedere quantomeno alla pronta liberazione. Il direttore del carcere aspetta l'ordine della magistratura per poter procedere alla scarcerazione. Una vicenda durata 5 anni, sulla quale addirittura è stato fatto un documentario. Sì, un regista amico di nostro figlio sta facendo un film che è già pronto e aspettava la fine, e la fine è arrivata. Naturalmente starete festeggiando, suppongo, o sua moglie è là? No, mia moglie era in procinto di partire, abbiamo fermato la partenza perché ieri sera ci è arrivata la notizia che questa mattina ci sarebbe stata la lettura della sentenza. Adesso aspettiamo, sentiamo cosa dice l'ambasciatore, o li raggiungiamo per portarli in Italia o verranno trasportati in Italia. Che non avete un'idea dei tempi quindi al momento? Non l'abbiamo noi, ma credo non l'abbia neanche né la Farnesina né l'ambasciatore. Bisogna aspettare la scarcerazione e poi si vede naturalmente che cosa fare se voi andrete là. Ma adesso aspettiamo con più serenità. Naturalmente. Allora, grazie ad Euro Bruno, papà di Tommaso Bruno, una delle due persone liberate questa mattina. Abbiamo in collegamento Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Per capire, Ugo, proprio questo, se anche questo è un segnale di ammorbidimento da parte dell'India che ci può far sperare per una soluzione positiva nel caso dei due Marò? Beh, sono due storie diverse, avvenute tra l'altro in due stati dell'India diversi, quindi bisogna stare molto attenti. Certo, qualche similitudine c'è, ma l'elemento fondamentale perché anche i nostri due Marò vengano liberati, in questo caso c'è una questione anche più politica, che nel primo caso non c'è. L'elemento fondamentale esiste già, e cioè esiste un forte governo indiano, che prima c'era il governo di Manmohan Singh, governo del Congress, del socialdemocratico, che era molto debole, continuava debole al centro e continuava a perdere consenso nei vari singoli stati ad ogni elezione. Ora c'è invece il governo di Narendra Modi, leader del BJP, il partito nazionalista indù, che è saldamente al potere, e per di più per da qui a un anno non ci saranno più elezioni locali che possono in qualche modo influenzare le scelte. Quindi l'elemento fondamentale perché i nostri Marò possano tornare a casa, che ci possa essere un compromesso, c'è. Bisogna vedere adesso appunto se ci saranno le condizioni politiche per arrivarci. E le condizioni politiche forse si sono un po' aggravate, Ugo, con le decisioni di Strasburgo della settimana scorsa? Sì, forse adesso non sono in grado di dire se ci fosse una trattativa politica già avanzata e concreta con il governo di Modi da parte del nostro governo della Farnesina per cercare di trovare appunto una soluzione politica, che non è altro che i nostri due Marò vengono processati in Italia e la storia si chiude lì. Sicuramente agli indiani questa cosa non ha fatto piacere, del resto era un atto dovuto che l'Unione Europea, che il Parlamento Europeo doveva fare già da tempo, non solamente ora perché il Ministro degli Esteri e della Sicurezza Europea è un'italiana, cioè Federica Mogherini. Era un atto dovuto a due soldati italiani che, innocenti e colpevoli, avevano tutto il diritto, io penso che siano innocenti, ma comunque potrebbero anche essere colpevoli, ma comunque avevano tutto il diritto di essere finalmente giudicati una volta per tutte. Grazie ad Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Forse non siamo stati abbastanza precisi, lo chiarisco per gli ascoltatori che ce lo chiedono via SMS. Quando parliamo di Strasburgo, diciamo che a larghissima maggioranza l'Aula di Strasburgo, sia del Parlamento Europeo, ha approvato una risoluzione la settimana scorsa sui Marò, nella quale si chiede, tra i vari punti, il loro rimpatrio e un cambio di giurisdizione, ed è questo che avrebbe irritato l'India. Torna da noi Gianfranco Sviderkowski, che è vaticanista, ex vice direttore dell'Osservatore Romano, biografo di Giovanni Paolo II, ha scritto anche un libro su Paolo VI. Sviderkowski, bentornato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo chiamata per un commento su queste parole del Papa che nuovamente fanno discutere dopo la questione del pugno. Se il mio amico offende mia madre, gli tiro un pugno. La questione dei conigli. Insomma, non bisogna riprodursi troppo. In realtà c'è stato anche il calcio dopo il pugno, stato anche il calcio, lui ha detto che avrebbe dato un calcio a uno che gli aveva offerto dei soldi per fare a metà quando era civica, quando era a Buenos Aires, così. Quindi il linguaggio del Papa è abbastanza colorito per dire sì, calcio. Sì, pugno, calcio e conigli. Ce la spiega questa questione che riguarda la paternità responsabile? Perché molti l'hanno interpretata dicendo questo è il primo passo perché il Vaticano riconosca la contraccezione. A dire la verità, anche a leggere qualche commento, per esempio leggevo proprio anche Vito Mancuso stamattina, credo che sia proprio il contrario, anche mi dà l'idea che il Papa un po' si sia spaventato di certe battute in avanti durante l'ultimo sinodo, per cui lui negli ultimi tempi anzi sia stato un po' più regolare. Infatti il fatto stesso che lui richiami dell'umane vita e quindi della dottrina tradizionale, credo che sia abbastanza significativo. Lui ha una maniera di raccontare le cose, di spiegare le cose, e anche con un suo metodo pastorale, e cioè lui in pratica rivolta il problema non parte più dai principi ma parte dalla situazione concreta delle persone e dice più misericordia, come però diceva anche lo stesso Paolo VI. Chiaro che lui dica che al giorno d'oggi non si possono fare delle famiglie come dei conigli, ma in qualche modo lo diceva anche già Paolo VI, lo dice anche un po' nel suo linguaggio per il Papa, però lo dice in quel modo lì. L'unica cosa che lui non dice, non è intervenuto a dire come, cioè quali metodi si possono usare, quindi diciamo si rimane un po' sempre a quello dell'umane vite, dove anche viene presa quel documento troppo in maniera negativa, troppo per una soltanto per il no alla pillola cattolica, mentre non si parlava invece di questo concetto della paternità e maternità responsabili. I confessori hanno fatto strame in quel periodo di povere coscienze cattoliche e molte, anzi forse da allora è cominciato un piccolo scisma silenzioso proprio per questo atteggiamento morale che non era tanto di Paolo VI ma era dei confessori, perché dice sì, il rapporto coniugale deve essere aperto verso la procreazione, però anche lo stesso Paolo VI nelle encicliche sono andato a poveri legge diceva che però ci sono anche delle situazioni in cui si può evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Lo dice in una nuova maniera il Papa, e chiaramente Papa Francesco, e lo dice in una maniera per cui lui appunto con l'esperienza per esempio di una parrocchia romana dove ha incontrato questa donna che aveva già 7 figli, 7 parti cesari ed era arrivata adesso all'8ª gravidanza. Ecco, questo forse non è maternità responsabile, lui questo voleva dire. Però io credo che sotto sotto invece ci sia anche un po' una preoccupazione per come sarà e come andrà il prossimo sino. Quindi non credo proprio che sia stato proprio un parlare per aprire, ma forse anzi forse per richiamare, come ha fatto anche nei giorni scorsi, la dottrina tradizionale. Sì. Quindi per richiamare appunto la dottrina tradizionale anche appunto in vista del sinodo. Presentate in una nuova veste. A suo modo. E naturalmente calcando molto sull'aspetto della misericordia, cioè dicendo c'è il principio, e però un conto è com'è d'altra parte è il filo rosso che attraversa tutta la sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Il principio sì, d'accordo, e però la persona è un'altra cosa, cioè la persona bisogna vederla nella sua realtà, nella sua concretezza, nei suoi problemi, e quindi anche quel richiamo ai confessori, come lui ha fatto richiamando Paolo VI, deve essere più accentuato, e non che i confessori invece siano i primi ad essere rigidi e severi, ma cercare di capire le persone. Grazie, grazie a Gianfranco Svidercoschi anche per queste spiegazioni, vaticanista, ex vice direttore dell'Osservatore Romano, biografo di Giovanni Paolo II, il suo ultimo libro è Ho vissuto con un santo. Prima di andare alla pausa e ai mercati parliamo di una serie TV, perché prosegue il successo di una grande serie TV italiana all'estero. Gomorra, un'eccezionale serie noir. Così titolava ieri il quotidiano Le Monde annunciando il debutto su Canal Plus della serie di Sky. E in Francia è andata benissimo. 871.000 spettatori, più 46% sulla media del canale e il 16,9% sul totale degli abbonati. La serie di Stefano Sollima aveva già ottenuto 1.300.000 spettatori e il 7,7% in Spagna e aveva funzionato anche in Germania e Gran Bretagna, dove il Guardian, ad esempio, aveva scritto «Gomorra non è distante dalla Baltimora del superlativo The Wire o dalla Brooklyn di Quei bravi ragazzi di Scorsese». Der Spiegel, invece, aveva titolato «Dimenticate i Sopranos, ecco i Savastanos». La serie arriverà presto anche negli Stati Uniti, dove verrà distribuita dal colosso The Weinstein Company, e in Israele. E in Italia è arrivata su Rai 3 il sabato sera, appesantita da un dibattito già ormai molto vista dopo la prima visione su Sky, la distribuzione in DVD e, bisogna ammetterlo, una discreta pirateria. Questa settimana è scesa sotto il 6% nel primo episodio, salendo fino al 7,94% nel secondo. Ma il sabato sera tutti si arrendono a Maria De Filippi, almeno Gomorra si difende come può. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È inammissibile il referendum della Lega sulla legge Fornero, rabbia di Salvini che dice la democrazia è morta. Intanto si tratta sulla legge elettorale Quirinale, stamattina l'incontro tra Renzi e Berlusconi, ma lo scontro è ancora aperto nel Partito Democratico. Oggi il governo dovrebbe varare le norme per contrastare il terrorismo. Esplosione in una palazzina a Roma, si pensa ad una fuga di gas, ma poi viene trovato un biglietto sul quale c'è scritto: siete dei ladri, non vi farò godere questa casa. La borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta Borse in diretta. Ed è una giornata complessivamente positiva per tutte le piazze finanziarie europee, supportate da due elementi. Da una parte il probabile arrivo per giovedì del varo di un programma di acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, e dall'altra parte l'indice ZEV, quell'indice tedesco che misura l'attività economica. Un più 1,05% per il FTSE MIB, un più 1,04% per il FTSE All Share, Parigi più 1,43%, Francoforte più 0,36%, Londra più 0,68%, indice ZEV che è andato molto meglio delle attese. A guadagnare in questa mattinata sono ancora una volta le banche popolari. Si attende anche dal Consiglio dei Ministri di oggi il varo di un provvedimento che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe varare l'abolizione del voto capitario, ossia una testa e un voto, e quindi rendere le popolari contendibili. Banco Popolare più 5,8%, Popolare Emilia Romagna più 5,5%, Monte dei Paschi più 3,5%, ma bene anche gli altri bancari, appunto Monte dei Paschi e poi Unicredit più 1,78%, insieme ad UbiBanca che guadagna l'1,72%. In fondo al listino oggi Luxottica che cede l'1,4%, Saipem l'1,34%, Ferragamo l'1,21%, Tod's lo 0,06%. Come vedete, un po' tutto il lusso che in realtà nella giornata di ieri aveva corso. È tutto. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E veniamo adesso a una nuova inchiesta a Roma e che ha anche contatti con l'inchiesta su Mafia Capitale, ed è un'inchiesta che riguarda l''Ndrangheta. Roma è il futuro, dicevano mentre erano intercettati alcuni indagati, perché stare a Roma dà prestigio criminale e soprattutto fa guadagnare un mucchio di soldi con le attività illegali e in questo caso soprattutto con la droga. Gli esponenti della 'Ndrangheta trasferiti nella capitale trattavano direttamente con i narcos in Colombia per far arrivare in Italia tonnellate di cocaina. Renato Cortese, capo della squadra mobile. La criminalità vede Roma come un punto di ulteriore espansione. Pezzi importanti della 'Ndrangheta calabrese hanno per anni sicuramente gestito l'introito di cocaina sul mercato della capitale. Questa operazione, 31 persone arrestate per associazione mafiosa, ha preso le mosse dall'omicidio di Vincenzo Femia. Abitava a Roma da decenni e da qui gestiva i traffici del clan fino a quando non è entrato in contrasto con le famiglie calabresi che ne hanno ordinato l'eliminazione. Uno dei suoi assassini, Gianni Cretarola, si è pentito e ha raccontato che a Roma l''Ndrangheta è ben radicata ma non indipendente dalle famiglie in Calabria. Gli affiliati pronunciano un rito antico di decenni. Il codice di affiliazione, criptato, è stato trovato in un quaderno sequestrato a casa di uno degli indagati. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo all'economia, dove tengono banco ancora le previsioni del Fondo Monetario Internazionale. La primavera è lontana anche nelle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, che vede l'Italia tornare a crescere nel 2015, ma meno delle attese. Il PIL salirà dello 0,4% quest'anno, dello 0,8% il prossimo. Il taglio è di 0,5 punti percentuali per entrambi gli anni. Non siamo però i soli, perché l'istituto guidato da Christine Lagarde rivede al ribasso le stime di crescita dell'intera economia mondiale. In particolare, oltre che in Italia, sarà più debole la crescita anche in Germania e Francia. L'unica revisione al rialzo all'interno dell'area euro è per la Spagna, mentre a livello mondiale gli Stati Uniti sono l'unica grande economia per la quale le stime di crescita sono state riviste al rialzo. L'America crescerà nel 2015 del 3,6%, nel 2016 del 3,3%. In forte calo l'economia russa. Quest'anno il PIL subirà un calo del 3% e nel 2016 di un ulteriore 1%. Non sono stime, ma dati reali quelli diffusi invece oggi da Pechino, la cui crescita nel 2014 si è attestata al 7,4%, ai minimi dal 1990. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Francesco Paolo Sisto, Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera di Forza Italia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, eccomi qua. Bentornato ai nostri microfoni. Dice Guerini che oggi Renzi e Berlusconi non hanno parlato di Quirinale, ma no, non ci si crede, è impossibile. Ma probabilmente la lettura di quello che ci dice Guerini è questa, che parlando del sistema che attualmente vede Forza Italia e il PD impegnati a un dialogo, non se ne è parlato dettagliatamente, ma parlare delle riforme costituzionali, parlare della legge elettorale fatalmente ha come risultante il tema del Quirinale, perché non c'è dubbio che in questo sistema l'intreccio di temi e di tempi fra la riforma che ha la Camera e la legge elettorale che ha il Senato ha una grande influenza sul tema del Quirinale. Io credo che il Quirinale è un tema che ha bisogno di una maturazione, un po' come un diesel deve poter partire e riscaldarsi. Non credo che si possa con un colpo di fulmine risolvere una questione così delicata. Non è un caso, Sisto, che si prevedano due settimane tra l'uscita di scena di un presidente e il voto sull'altro, insomma. Sì, perché tra l'altro poi già è importante che si sia d'accordo su una persona dotata di autorevolezza, che questo a me sembra un dato fondamentale, non certamente una seconda fila, e soprattutto che sia una figura di garanzia, che tranquillizzi tutti, che sia capace di spargere endorfina anziché conflittualità. Credo che questo è un buon punto di partenza. Avete deciso chi votate al primo scrutinio, che tanto non sarà quello che ci porterà il Presidente della Repubblica, Sisto? Guardi, se io avessi un candidato certamente non lo brucierei, perché fatalmente i nomi che si fanno subito sono quelli che poi non hanno spazi. Io credo che sarà importante una rosa di candidati, perché ci può essere un candidato, cioè non andare sul singolo ma andare su un gruppo e poi scegliere, perché nessuno è perfetto, però ci può essere un candidato che ha un pregio superiore a due o tre difetti e un altro che magari ha un difetto che è superiore a 3-4 pregi, quindi credo che debba essere un esame comparativo e qualitativo soprattutto, quindi lungi da me bruciare un candidato, sembra che la scelta non farà nomi. Non farà nomi. Senta Sisto, per quel che più specificatamente la riguarda, ossia appunto le riforme costituzionali, sì, nella fattispecie più che le riforme costituzionali la legge elettorale, come ha visto le tensioni del PD sono sempre più forti, se dovesse saltare questo Italicum lei che cosa vede e che cosa farete? Guardi, io non penso che l'Italicum possa saltare, tra virgolette. Io penso che ci sono dei temi che vanno approfonditi tenendo conto delle esigenze dei due partiti dialoganti. È chiaro che noi sul premio di lista anziché sul premio di coalizione facciamo le barricate, perché è uno snaturare l'Italicum che la Camera ha licenziato e soprattutto presenta un macro partito e la frantumazione con l'abbassamento delle soglie in tanti piccoli partiti che diventerebbero, corrono il rischio di diventare abbastanza inutili, quindi è un modo di gestire la legge elettorale su cui credo un sano ripensamento possa essere auspicabile. Poi è chiaro che dobbiamo pensare all'interesse del Paese, a dare al Paese una legge elettorale che costituisce un po' come il processo penale un grande segnale del livello di civiltà. Grazie a Francesco Paolo Sisto, Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera di Forza Italia. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento, come sempre, di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Our ultimate goal is an agreement that gets our long-term deficit under control in a way that is fair and balanced. That kind of agreement would be good for our businesses, it'd be good for our economy, it would be good for our children's future. And I believe that both parties can agree on a framework that does that in the coming weeks. Barack Obama la settimana scorsa è andato in giro per il paese a dare una preview del discorso sullo stato dell'Unione che pronuncerà questa notte. Ha affrontato temi economici, temi sociali, questioni di educazione e stanotte naturalmente parlerà al paese, al Parlamento riunito in assemblea plenaria, delle sfide che restano per la sua amministrazione in questi due anni di mandato, da qui alla fine del 2016, anzi all'inizio del 2017. 2017. Io direi, al di là delle tematiche interne, economiche, politiche, ce ne sarà una che sarà particolarmente ascoltata dagli americani, perché riporta memoria del passato, perché rappresenta anche una risposta alle sfide del futuro, e cioè la tematica del terrorismo. L'America, devo dire, è rimasta molto colpita da quello che è successo in Francia, è rimasta ancora più colpita da quello che poi è successo in Belgio. Questo attacco, questo rischio di un nuovo attacco, vuol dire che davvero questi terroristi sono organizzati, si stanno muovendo, stanno cercando di colpire l'Europa e chissà, magari in questo momento stanno anche cercando di fare qualche cosa in America. Dunque la psicosi c'è, e c'è anche un grande sentimento di solidarietà con l'Europa su due livelli. Il primo naturalmente è quello dell'attacco alla nostra cultura, alla nostra civiltà, ai nostri valori. Il secondo è anche l'attacco, soprattutto quello che abbiamo visto a Parigi, alla comunità ebraica. Il New York Times, in un editoriale, devo dire, molto bello, non solo ricorda quello che dice Manuel Valls, il primo ministro francese, che ha detto che la Francia non sarebbe la stessa senza gli ebrei, e in effetti 7.000 francesi solo l'anno scorso hanno lasciato la Francia per andare in altri paesi e soprattutto in Israele. Il New York Times ha ricordato quello che ha scritto Claude Lanzmann su Le Monde, un grande regista francese, e dice: non dobbiamo dare a Hitler una vittoria postuma. Ecco, di questo parlerà sicuramente Barack Obama questa sera, ma di questo in America, come vi ho detto, si è già parlato. Allora mi incuriosisce sapere quella che può essere una posizione italiana su queste tematiche, e ho pensato di sentire Liliana Picciotto, che è il direttore delle ricerche del Centro Documentazione Ebraico di Milano, perché sta venendo a New York. Ho letto da qualche parte che andrà a Washington, terrà delle conferenze per il 60° anniversario di questo centro, che è un po' il centro studi sull'ebraismo in Italia, e dunque l'ho con me ai microfoni di America 24 per cercare di capire intanto come l'Italia sta vivendo questa situazione. Buongiorno Liliana Picciotto, mi sente? Sì, la sento, buongiorno. Ecco, arrivando dunque, cosa gli racconta agli americani? Ci sono preoccupazioni anche in Italia, verranno qui, ci sono delle esperienze del passato. Cosa gli racconta agli americani che sono incuriositi di quel che succede in Europa? Ma gli racconto che in questi giorni l'allarme qui in Italia è molto alto e la preoccupazione è molto alta, e però la situazione si presenta molto meno accaldata che in Francia. E devo dire che l'Italia ha già avuto l'esperienza di un enorme travaso verso altri paesi, in particolare verso gli Stati Uniti, e questo è avvenuto proprio nel 1938, quando ci sono state emanate in Italia le leggi antiebraiche. Ecco, quindi quando ci furono le leggi razziali, quando ci fu una situazione drammatica in Italia, quindi lei mi dice che ci fu una forte immigrazione proprio in America. Ma chi sono questi italiani che sono arrivati in America? Cito Emilio Segre, un grande fisico, e poi c'è Bruno Zevi, c'è Andrew Viterbi, c'è Franco Modigliani, c'è il matematico Gino Fano, poi Paul Pontecorvo, fratello di Bruno, anche lui matematico. Ecco, mi sembra di ricordare che anche Enrico Fermi, anche lui premio Nobel, poi restò negli Stati Uniti perché aveva una situazione anche lui difficile, cioè la moglie era di origine ebraica e dunque non poteva rientrare, o sbaglio? Lui era sposato con Laura Capone, e quando lui prese premio Nobel, questo fu nel dicembre del 1938, decide di non rientrare in Italia. Poi comunque la situazione per la famiglia Fermi fu veramente drammatica, perché il papà di Laura Capone, l'ammiraglio Capone, che risiedeva a Roma, fu rastrellato insieme agli ebrei romani il 16 ottobre 1943, fu arrestato e buttato sul treno come un vecchio sacco. Ecco, lei mi ha parlato prima, ha fatto alcuni nomi, alcuni li ho conosciuti, Franco Modigliani per esempio l'ho conosciuto molto bene, devo dire, molti di questi sono poi rimasti negli Stati Uniti e in qualche modo, superato poi quello che è stato il momento critico, hanno mantenuto un rapporto molto intimo, molto diretto, molto stretto con l'Italia, alcuni addirittura sono rientrati in Italia. Secondo lei un personaggio come Bruno Zevi, che era architetto, in questo periodo americano prima di rientrare in Italia ha potuto, come dire, arricchirsi anche professionalmente, culturalmente? Gli è servito alla fine, cioè passato il trauma? Sì, assolutamente sì. Oltretutto ha potuto anche fare negli Stati Uniti attività antifascista. E poi comunque, oltre che a Bruno Zevi, stavo pensando a Emilio Segre, che ha vissuto a Berkeley tutta la sua vita e rimasto legato agli Stati Uniti, io devo dire nello stesso modo agli Stati Uniti e all'Italia. Ma voglio ancora citare Andrew Viterbi, che è nato a Bergamo nel 1935, il cui padre Achille, che era primario oftalmologo all'ospedale appunto di Bergamo, andò negli Stati Uniti. E Viterbi si è educato come scienziato proprio negli Stati Uniti ed è l'autore abbastanza noto dell'algoritmo usato per codificare trasmissioni digitali. Famoso algoritmo di Viterbi, sì, infatti una volta l'ho intervistato perché è stato sulla base di quell'algoritmo che praticamente è nata un'azienda che si chiama Qualcomm e di fatto è grazie a quell'algoritmo, grazie a Qualcomm, che possiamo avere le comunicazioni con i telefonini digitali così come le abbiamo adesso. È stata un'invenzione rivoluzionaria. Ma senta, volevo chiederle anche, lei arriva negli Stati Uniti perché c'è il 60° anniversario del CDEC, del Centro Documentazione Ebraica, e sarà Washington, sarà New York, e ci saranno anche delle operazioni di gemellaggio, per esempio col Museo dello Shoah di Washington. Avete delle iniziative che farete durante questo viaggio americano? Sì, cercheremo di fare dei progetti congiunti perché ci sono degli studi che possono benissimo essere fatti internazionalmente. Noi vogliamo proprio cercare di lavorare insieme perché non ha più senso che in Italia si faccia una ricerca e poi se negli Stati Uniti magari se ne faccia un'altra simile. Ma in questo momento in cui il multiculturalismo dovrebbe dominare, in cui abbiamo internet, in cui non ci sono più frontiere, in cui dovrebbe esserci un passaggio, uno scambio continuo di circolazione sia sul piano culturale che su quello scientifico che della ricerca, ecco, e noi ci troviamo qui a parlare del pericolo di questi attentati, del fatto che persone possano ancora fuggire dal loro paese per proteggersi. Ecco, che sensazione le dà il fatto che si parli di questo in America, in Francia, in Italia e che lei stessa dovrà confrontarsi con gli americani proprio su questi temi? Guardi, mi viene in mente, guardando alla situazione in cui siamo adesso, proprio all'angelo di Benjamin che avanza con le gambe ma in realtà ha la faccia girata all'indietro. Ecco, noi non dobbiamo girare la faccia all'indietro, dobbiamo fare in modo che la nostra faccia guardi in avanti, in alto e al futuro. Devo dire che malgrado tutto sono abbastanza ottimista, ho visto la reazione di tutta la Francia, di tutto il mondo rispetto a quello che è successo e quindi spero che troveremo in noi la forza per reagire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, prima vi ho ricordato quello che ha detto Manuel Valls, il primo ministro francese, quello che poi ha scritto il New York Times ispirandosi a Manuel Valls. Cioè, cosa sarebbe la Francia se non ci fossero stati gli ebrei? E devo dire, in America ci si domanda cosa sarebbe l'America se non ci fossero gli ebrei, se decidessero di andarsene tutti. E dunque, dedicando all'America, al multiculturalismo, io vi propongo questa canzone molto bella, una canzone ispirazione yiddish tratta dal violinista sul tetto, interpretata da Topol, If I Were a Rich Man. Sentite il colore di provenienza Est Europa immerso nel grande calderone multirazziale americano. Topol, If I Were a Rich Man. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Ed è tutto per Effetto Giorno. I ringraziamenti Filippo Oreggi in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Noi ci risentiamo domani alle 13 con la trasmissione e tra un attimo con GR24.